Vieni libera? Sì? Chuck? Ok. Ah, sapete che è tutto ripreso, per cui stasera quindi fate belle fatte. No, sto scherzando. Non è ripreso niente. Allora, ciao, buonasera. Mi chiamo Enrico, sono un ex alcolista. Sono qua al Cox, del resto, per togliermi il vizio dell'alcol. Ma non mi sta riuscendo. Per cui farò questo concerto un po' ubriaco. Però, voi, tanto, siete qua mica per i miei problemi personali. Siete qua per ascoltare della musica. Allora, noi stasera facciamo una serata... mia cognata mi ha chiesto l'altra sera, ma stasera, cioè, io esco una volta al mese, ma vengo a divertirmi oppure mi rompo i coglioni? Gli ho detto, guarda... È vero, è tutto vero questo. È verissimo, me l'ha detto proprio l'altro giorno. Senti, ma io esco una volta al mese, cioè io vengo, mi diverto oppure mi rompo le palle? Dipende da come la vedi. Cioè, noi cercheremo con il nostro grande umorismo di farvela passare più dolce possibile questa pillola amara, perché in realtà noi faremo stasera un repertorio di musica contemporanea abbastanza to cuore. Intanto mi fregio il privilegio di fare un pezzo di Luciano Berio al Cox, che secondo me qua al Cox Luciano Berio non c'è mai venuto. Però, cioè, lui fisicamente non c'è mai venuto, perché a questi orari Luciano Berio era già a dormire, sicuro, insomma. Per cui il primo brano che eseguirò lo faccio a nudo crudo col piffero, dicevano i due musicologi qua davanti, col carinetto da solo, ed è un brano di, appunto, di Luciano Berio del 1983, che ho scritto qua, che si chiama Lead. Tanto le mie parti sono dei screenshot di YouTube, per cui sono un po' estese rispetto a una parte che dura molto poco, cioè sono più pagine rispetto al tempo di durata del brano stesso. Quindi, se vedete pagine volare, non aiutatemi, non raccattatele, perché sennò poi me le mettete male e io sbaglio il pezzo. Per cui adesso eseguirò Lead. Vai con con riverbero, Carlo. Thank you. ad Amsterdam. Secondo me tra Stockhausen e Boulez, nei grandi momenti di silenzio, tra l'incomunicabilità tra il francese e il tedesco, si guardavano e dicevano io. Prossimo brano, in realtà il compositore è vivente eppure presente, quindi è un compositore che riesce ad andare a dormire oltre le mezzanotte. Tra l'altro ragazzo anche simpatico, e poi farà parte anche questo consesso qua. Sì, lui mi ha detto, ma me lo esegui veramente? Sì, ma proprio sicuro. Poi mi ha mandato spartito in formato digitale, io però non sapevo come cazzo leggerlo, per cui poi copisteria, scaricato il telefono, USB, non c'è USB, poi mi ha dato un USB a forma di Lego, l'ho messa dalla parte sbagliata, però sono riuscito comunque a stamparlo, e quindi lo eseguirò perché è stata un'avventura incredibile. Gli avevo detto anche, vieni qua a spiegarlo, ma poi alla fine mi sto dicendo, ma ti evito, fra... Dove sei? Ti evito di venire qua a spiegare il perché è fatto comunque di pochissime note. Il brano si chiama Atlantis... e ve lo eseguo. Passiamo al pezzo pop della serata, dove si canta, cazzo. Ah, finalmente. Adesso eseguirò un brano di un signore ricchissimo, ragazzi, e più ricco di tutti i rapper che ci sono in questa città, ve lo garantisco. Si chiama Steve Reich, di origine ebraica, sempre col cappello in testa, ed è il compositore più ricco del mondo. Ma proprio più ricco, tipo a livelli di, non so... Vabbè. E questo brano è stato concepito per 11 clarinetti, io ne ho uno, però è stato pensato anche perché 10 sono sovraincisi e uno è dal vivo, per cui filosoficamente 10 sono io un tempo sotto e l'ultimo sono io durante, sopra, insomma, una cosa heideggeriana, ma non vi sto a spiegare adesso, però è stato scritto nel 1985, lo dico perché il 1985 è l'anno del flusso canalizzatore, e per me è importantissimo, insomma, ricordarlo, e mi serve dirlo perché prima di questo brano c'è uno starter, se no non so come iniziare il pezzo, che non c'entra proprio niente col brano in sé, lo riconoscerete, ma voi fate finta di non conoscerlo, insomma. Per cui dalla regia mandi pure l'Ampex e buon ascolto. Che lingua è, Doc? Sì. Lascia che ti spieghi. Immagina che questa linea rappresenti il tempo. Qui c'è il presente, 1985, il futuro e il passato. Prima di questo punto nel tempo, da qualche parte nel passato, la linea del tempo è stata deviata in questa tangente, creando un 1985 alternativo. Alternativo per te, per me e Einstein, ma realtà per chiunque altro. è la cosa figa, ragazzi, che non si paga la SIAE. E questo io l'ho fotocopiato nel 94. Lo eseguo, l'ho inciso, l'ho fatto dappertutto, non ho mai pagato un cazzo di niente. Ma qua la SIAE non c'è mai entrata, infatti. Bene. Bene qua. Però, cioè, se mi beccano mi rovina il signor Stibraic. Va bene. C'è il signor SIAE in sala? No, che se dicesse che c'è, poi dopo penso che faccia un bel, una bella serata. Tutti lo guarderebbero così. Oh, quella della SIAE. Peggio fosse un giudice. Mazza che ha detto. Vabbè, allora, andiamo avanti. Allora, no, no, in realtà questa era la parte semplice. Da ora in poi comincia la parte complessa, per cui per questa parte qua chiamo raccolta i miei sodali amici Rodrigo D'Erasmo. Ah, tra l'altro, informazione di servizio, ho avuto i pidocchi. Una cosa che ho scoperto è che i pidocchi si annidano in questa zona dei capelli qua. E io, guardando il mio amico Rod, ho capito, ah, ecco perché ti sei tagliato qua, anche Simone. Voi avete il taglio antipidocchio, che in realtà mi sa che prima o poi anch'io devo fare. Però hanno detto, mia moglie ha detto no, non lo fare che c'è la testa brutta, quindi non lo farò. È vero. Sai, tu lo sai, che mia cognata sa tutte queste cose, perché pidocchi è una cosa che... Comunque, poi chiamo a raccolta qua. Dario, vieni! Dario Gatto, vieni qua. Ci siamo conosciuti ormai, sono anni che ci conosciamo, è vero. Ci ho visti due volte, ma sembra proprio che ci conosciamo una vita. Poi, il compositore del brano precedente, nonché mio sodale in 1940, quindi è la persona che ha messo in piedi questa serata qua, Francesco Fusaro. Adesso cosa andremo a eseguire? Beh, adesso eseguiamo una cosa in realtà che potrete vedere anche voi. Ve lo dico subito, dura un po', un bel 25 minuti insomma. Poi in questi 25 minuti potete fare un po' quel che vi pare, cioè basta semplicemente che non disturbate noi con oggetti contundenti, però insomma 25 minuti sono una cosa lunga, ma se voi, anche voi, state lasciate ipnotizzare da quello che avverrà in questo schermo, passeranno un po' di più. È un brano di musica scritto da un signore che si chiama Cornelius Cardew, inglese, negli anni 60, ci ha messo un bel paio d'annetti a concepire questa cosa che si chiama Treatise. In realtà è uno schermo nero in cui passano delle linee, e le linee sono sempre più complesse, sempre più attorcigliate, sempre più aggrovigliate, e ai musicisti è richiesto di suonare su quello che succede, su questa partitura in movimento. C'è una linea rossa in centro, tutto quello che passa in questa linea rossa è l'evento che ci riguarderebbe. Per cui quello che voi sentirete è il risultato di ciò che noi speriamo e immaginiamo di fare. Cioè, me ne devo andare da qua, perché sennò non vedete niente, no? Cioè io se sto qua non vedete un cavolo, per cui adesso me ne vado. Me ne vado qua, sì, ok. A Carlo Zolle i suoni, ragazzi, eh? È una firma d'autore, eh? Suoni d'autore. Carlo, ti provo un attimo questo coso. Mi ci metti tanto riverbero, perché non è che si può suonare con un suono così. Irrigheira, va bene, ma insomma, non è il contesto. Aspetta. Devo scegliere un suono. Soprano sax? No. aspetta, che suono posso mettere? Banjo e flute? No. armonica. Come si dice in inglese? Lo sapevo, volevo vedere se eravate attenti voi, perché sapete che Blues Brothers, c'è la traduzione storica di Cab Calloway che dice: mi ricordo quando in cantina suonavamo l'arpa insieme. Sì, sì, orfanotrofio con l'arpa in cantina. Sì. Vabbè, me la caverò. Flauto. Ah, vedi che ogni volta che cambio suono fa... Sì, ma non è un flauto, tra l'altro, scusa, ma... È già... Spinetta, c'è violino, che faccio, competo con un violino vero? Spinetta, ma che spinetta in inglese, ragazzi, non esiste, non diciamo cavolato. Tromba. Non cambia suono. C'è batteria finta. Vediamo. E questa è l'unica batteria che sentite stasera, eh? Abbiamo detto, mi raccomando, seri, approcciamo seriamente questo programma. Dopo aver messo il numerino, premi enter. Scusa, metti il numerino, frate, guarda, questo qua. Enter. E poi... Ecco. Yeah. Scusate, ok. Vabbè, signore e signori, Tre Tease di Cornelius Cardew. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie. Mamma mia. Poi c'è pure Lirici qua davanti, il professor Bertrippo in persona, mamma mia. Vabbè, in realtà... Dove siamo? Sono un attimo perso, un secondo. Lei chi è? Madonna mia. Allora, beh, facciamo un ultimo brano in realtà, che questo era bianco e nero, prossimo in realtà è un semaforo. Letteralmente? Letteralmente è un semaforo, è scritto da un signore che si chiama Samuel Belshow, questo brano si chiama Music Machine 41. Dura tranquilli, ma state là. Cronometratissimi, sono 4 minuti esatti o 5 minuti? 5 minuti. Sì. Diciamogli 4 minuti così percepiscono meno. Ma secondo me è sempre meglio dire 6 minuti e poi 6 minuti 5. E poi sono meno, sì, ok. Allora c'è uno schermo, questo, diviso in 4 parti. In centro ci sono dei secondi che danno il tempo a tutto. Le 4 parti sono anche quelli contate con dei counter di secondi. Noi dovremmo dividerci in 4 parti, noi stessi. Sì. Quindi lui farà una parte e prenderà uno spicchio di uno di questi quadrati qua. Cosa farai tu? Quello in alto a destra. Quello in alto a destra. Quello in alto a destra lo farò, quindi a voi non me ne frega niente. Dario, fai? In alto a sinistra. In alto a sinistra. Lui fa in alto a sinistra. Cioè lo spicchio in alto a sinistra lo fa Dario. Tu? Basso a destra. Basso a destra. La sua sinistra, la sarebbe il massimo. Scusa, la vostra in basso a sinistra lo fa lui. Sì, basso a sinistra. Rimane quello a destra in basso. Scusate. Che sono stato incaricato di fare io, ma con voi. No, veramente, non è difficile. È proprio semplice perché usa il linguaggio del semaforo. Quando è rosso si suona, quando è rosso. Porca miseria, cane. Rosa. Ma atletismo è veramente tritato. Semaforo fluido. Scusa. Quando è verde si fa, si suona, si fa l'evento. Quando è rosso non si fa niente. Quando è giallo decidi che fare. Ecco, questo è un evento, ad esempio, esatto. Lui si occuperà di rumore bianco. Sentiamo come si fa il rumore bianco con la voce. Esatto. Auguriamoci di non avere alitosi, fare questo tipo di siete performance. Siete lontani, c'è il pericolo. Non no, ma lui non ce l'ha mai avuto. Alitosi, io. Grazie. Dario invece si occuperà di? Una canzone. Cantare, lui canterà, farà una canzone che è molto bella. Ma non ci canta una canzone, ma non dire quale perché faccio una sorpresa. Nulla dire. Tu invece ti occuperai di parole. Sì, recito una cosa. Ok, mentre io con voi, poi vengo qua davanti, dobbiamo fare invece quello che si... i versi. Ecco, no, la pernacchia un po' meno, magari. Sì, vale tanto. E se uno fa la pernacchia, poi ciao. Sì, però magari è divertente uguale, non ci sono le restrizioni. Sì. Ma la pernacchia non riesco a togliere dal computer. A parte la pernacchia vale tutto. No, niente. Vabbè, comunque potete fare un sacco di cose, basta che non parlate e non fate non fate parole e non fate rumore bianco. No, rumore bianco si può fare. Fate quello che vi pare. Ok? Voi vi occupate del riquadro che c'è qua? In basso a destra. Vi do io, se volete, il cenno, sperando di non coprirvelo, perché sennò no, ma si vede perché è un po' in alto, secondo me. Io mi faccio un po' indietro. No, io sto qua, vi dico semplicemente. Però è semplice, è verde, fate le cose. E ci sono i secondi per quanto dovete farle. A un certo punto si interrompe, diventa rosso e vi smettete. Sì, bravo. Esatto. Ecco, bravo. Sì. Sei di una generazione di un certo giusto. Tipo, mazza. Il riferimento giusto. La corrida, bravo, esattamente. Per cui vediamo cosa ne viene fuori. E... Che si dice dovete fermarvi proprio secco, quindi ci vuole coordinazione. Farò meno luce, mind meno luce, per favore. Grazie. Sì. Ancora meno. Sì, appropinquati. Sì. Mettiti di lato, se no non vedo lo schermo. Vai, provate. Harry. Sì, fanno quello che vogliono e poi quando gli fai il gesto si fermano. Cioè, mettiti comodo. Sì. Dai. Esatto. Esattamente. Sì. Tu fai quello. Vedi che basso. Ho detto giusto. Allora, alla io fine. Faccio il basso a destra e loro l'alto a destra, ok? Sì. Ah, io rimango dove ero prima. Rimanete dove siete, cambio solo io. Ok, grazie. Lo, appena lo vedete capite qual è il riquadro. Non me ne frega, fate che vi pare, vi do soltanto il gesto di farlo, poi fate che cazzo di porca. Facciamo un covid, perché non so cosa. Può cantare, ci fa cantare anche lei, che almeno ci... Buca un po'. Al bar l'hanno presa un po' la lettera la cosa, non, dovete, non è adesso che dovete fare le cose con la bocca, dovete aspettare il momento... Se tanto c'è il countdown, vai. Così vedete quali sono i quadrati anche, sono spenti all'inizio, eccoli là. Voi siete in alto a destra. Esatto. Quando c'è il colore verde fate, rosso no, giallo volete, fate quello che volete. È quello vero. Subito. Non è possibile che cominciamo noi. No, ricominciamo. Fermo lì, fermassimo, dai. Quello è. Ferma. No. Rifo. Ok. Vabbè, ormai era partito. Okay. Quanto dura il canale? Siamo la ciurma nemica d'una galera infame. Out, out, with candle. Life is but... in shadow. A poor player, the struts and frets, is our upon the stage, and then he's heard no more. It is a tale. Gli impidi schiude la nostra aurora e sulla tenda squallida. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A cool player that struts and frets his hour upon the stage. And then he's a no more. Grida la scolagnora. I nostri visi infiolano. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury. S'involano trafitti dec. Signify nothing. Catene, siamo sempre smagri schiavi. Stretti in ferro catene, sorge sul mar la luna. Out, out, brief candle. Life, it's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then he's heard no more. It is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. It is time to out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that... The struts and frets his hour upon a stage. Ma sulla nostra luce stese un funereo velo. Storme di schiavi. And then he's heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. It is time. Una serata diversa dalla routine, va. Dai, Francesca, è stato divertente alla fine, su.